Canto settimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto settimo. Poscia che l'accoglienze oneste e liete furo iterate 3 e 4 volte, Sordel si trasse e disse: «Voi chi siete?» Prima che a questo monte fosser volte l'anime degne di salire a Dio, fur l'ossa mie per Ottavian sepolte. Io son Virgilio, e per null'altro rio lo ciel perdei che per non aver fe. Così rispose allora il duca mio. Qual è colui che cosa innanzi a sé subita vede, onde si maraviglia, che crede e no, dicendo: «Ell'è, non è», tal parve quegli. E poi chinò le ciglia, ed umilmente ritornò ver lui ed abbracciollo ver minor s'appiglia. «O gloria di Latin», disse, «per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra! O pregio eterno del luogo ond'io fui! Qual merito o qual grazia mi ti mostra? Sì son d'udir le tue parole degno, dimmi se vien d'inferno e di qual chiostra!» «Per tutti i cerchi del dolente regno», rispose lui, «son io di qua venuto. Virtù del ciel mi mosse e con lei vegno. Non per far, ma per non fare, ho perduto di veder l'alto sol che tu disiri e che fu tardi da me conosciuto. Luogo è laggiù, non tristo da martiri, ma di tenebre solo, ove i lamenti non suonan come guai, ma son sospiri. Qui vi sto io, co parvoli innocenti, dai denti morsi della morte avante, che fosse dell'umana colpa esenti. Qui vi sto io con quei che le tre sante virtù non si vestiro, e senza vizio conobber l'altre e seguir tutte quante. Ma se tu sai e puoi, alcun indizio da noi, perché venir possiamo più presto là dove il purgatorio ha dritto inizio.» Rispose: «Luogo certo non c'è posto. Licito m'è andar suso ed intorno. Per quanto ir posso, a guida mi t'accosto. Ma vedi già come dichina il giorno, ed andar su di notte non si puote, però è buon pensar di bel soggiorno. Anime sono a destra qua remote, se mi consenti, iti merrò ad esse, e non senza diletto ti fien note.» «Com'è ciò?» fu risposto. «Chi volesse salir di notte, fora egli impedito d'altrui? O non saria che non potesse?» E il buon sordello in terra fregò il dito, dicendo: «Vedi, sola questa riga non varcheresti dopo il sol partito. Non però altra cosa desse briga che la notturna tenebra a dir suso, quella col non poter la voglia intriga. Ben si porria con lei tornare in giuso e passeggiar la costa intorno errando, mentre che l'orizzonte il dì tien chiuso.» Allora il mio signor, quasi ammirando, «Mena», ne disse, «adunque, là vedici, ch'aver si può diletto dimorando. Poco allungati c'eravam di lici, quando m'accorsi che il monte era scemo, a guisa che i valloni sceman quinci. Colà», disse quell'ombra, «n'anderemo, dove la costa face di sé grembo, e quivi il nuovo giorno attenderemo. Tra erto e piano era un sentier sghembo, che ne condusse in fianco della lacca là ove più che a mezzo muore il lembo. Oro ed argento fino, e cocco, e biacca, indico legno lucido e sereno, fresco smeraldo, in l'ora che si fiacca, dall'erba e dagli fiori, entro quel seno posti, ciascun saria di color vinto, come dal suo maggiore è vinto il meno. Non avea pur natura ivi dipinto, ma di soavità di mille odori mi facea un incognito indistinto. Salve regina, in sul verde e in su fiori, quivi seder cantando anime vidi che per la valle non parean di fuori. Prima che il poco sole omai s'annidi, cominciò il Mantovan che ci avea volti, tra color non vogliate ch'io vi guidi. Da questo balzo meglio gli atti e i volti conoscerete voi di tutti quanti che nella lama giù tra essi accolti. Colui che più sed alto ed ha sembianti d'aver negletto ciò che far dovea e che non muove bocca agli altrui canti, Ridolfo imperador fu, che potea sanar le piaghe can l'Italia morta, sì che tardi per altri si ricrea. L'altro, che nella vista lui conforta, resse la terra dove l'acqua nasce, che molta in Albia ed Albia in mar ne porta. Ottachero ebbe nome, e nelle fasce fu meglio assai che Vincislao suo figlio, barbuto, cui lussuria ed ozio pasce. E quel nasetto, che stretto a consiglio par con colui ch'ha sì benigno aspetto, morì fuggendo e disfiorando il giglio. Guardate là come si batte il petto. L'altro, vedete, ch'ha fatto alla guancia della sua palma, sospirando, letto. Padre e suocero son del mal di Francia. Sanno la vita sua viziata e lorda, e quindi viene il duol che si rilancia. Quel che par si membruto e che s'accorda cantando con colui dal maschio naso, d'ogni valor portò cinta la corda. E se re dopo lui fosse rimaso lo giovinetto che retro a lui siede, bene andava il valor di vaso in vaso, che non si puote dir dell'altre erede. Giacopo e Federigo hanno i reami, del retaggio miglior nessun possiede. Rade volte risurge per gli rami l'umana probitade, e questo vuole quei che la dà, perché da lui si chiami. Anco al nasuto vanno mie parole, non men all'altro Pier che con lui canta, onde Puglia e Provenza già si duole. Tant'è del seme suo minor la pianta, quanto, più che Beatrice Margherita, Costanza di marito ancor si vanta. Vedete il re della semplice vita seder là solo, al rigo d'Inghilterra, questi ha nei rami suoi migliore uscita. Quel che più basso tra costor s'atterra, guardando un suso, è Guglielmo Marchese, per cui ed Alessandria e la sua guerra fa pianger Monferrato e il Canavese. Fine del canto 7.